E prima o poi mi spezzi il cuore, mi spezzi il cuore. Yeah, yeah, yeah! E prima o poi mi scaldi il cuore, mi scaldi il cuore! Yeah!